English Bit di Giulia Crivelli. Expect. Donald Trump expected to release remaining JFK assassination documents. Donald Trump dovrebbe rendere pubblici i restanti documenti sull'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy, così titolava il Washington Post. La parola che ci interessa è expected, voce del verbo regolare to expect. Come avrete capito, non si può fare una traduzione letterale. Il verbo è molto versatile e può essere usato in forma attiva o passiva. We are expecting a rise in food prices this month. Ci aspettiamo un aumento dei prezzi degli alimentari questo mese. Don't expect sympathy for me. Non aspettarti compassione. Sympathy è un false friend, non significa simpatia. Her parents expected high standards from her. I suoi genitori si aspettavano grandi cose da lei. They expected all their children to be high achievers. Si aspettavano grandi cose da ciascuno dei loro quattro figli. You can't expect to learn a foreign language in a few months. Non puoi pensare di imparare una lingua straniera in pochi mesi. Poi, naturalmente, c'è il significato di aspettare un bambino. My friend Anne is expecting a baby in June. La mia amica Anne è incinta e dovrebbe partorire in giugno. Un famoso libro di qualche anno fa, divenuto un long seller in tutto il mondo, si intitolava What to expect when you expect. Cosa aspettarsi quando si aspetta. Passando all'uso passivo, possiamo dire It is expected that major reforms will be announced. Ci si aspetta l'annuncio di importanti riforme. A little tiredness after taking these pills is to be expected. C'è da aspettarsi un leggero senso di spossatezza dopo aver preso queste pillole. Sales of mobile phones in 2016 were lower than expected. Le vendite di telefoni cellulari nel 2016 sono state inferiori alle stime. I due sostantivi, expectancy e expectation, hanno significati leggermente diversi. There was an air of expectancy among the waiting crowd. C'era aria di grandi annunci tra il pubblico in attesa. Life expectancy è, come si può immaginare, la traduzione di aspettativa di vita. We are confident in our expectations of recovery. Qui la sfumatura è più razionale. Abbiamo fiducia, confident è un altro false friend, nelle nostre previsioni di attesa. Unfortunately, the new software has failed to meet expectations. Purtroppo il nuovo software non è riuscito a soddisfare le attese.